24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Vi vedranno come un caso umano. Un miracolo italiano, al contrario tu scappa via lontano da qui, come Saviano da qui, non ci salviamo che più, nemmeno come camerieri serviamo. Io ti ringrazio e ringrazio Roberto, a nome di tutti penso. Quando Danna, Sacco, Sasso, Michele, ha risarcito i danni di favore di Saviano Roberto, Parrocchione Rosaria e del Consiglio d'Ordine dei giornalisti della Campania, da liquidarsi in separata sede. Letto l'articolo 530, lo scheletro e vogliono mangiare come i barbari a Roma, mentre l'Italia fa shopping, pretty woman, woman. In questo caso viene condannato un avvocato con l'aggravante mafiosa e come appunto responsabile delle minacce, cioè come se appunto fosse in qualche modo stato lo strumento utilizzato dai terroristi. I catanesi secondo me si dimostrano per l'ennesima volta dei guappi di cartone, perché si sono nascosti dietro un avvocato. Restano delle persone che hanno capito in qualche modo. Per lavorare, il mio futuro è tutto fermo da mesi, il comune non risponde. Ah, che paese bizzarro, eh? Resto in attesa come il numero. Come dice lo stesso Saviano su Repubblica oggi in un'intervista, com'è che condannano un avvocato perché mi minaccia? E non dice niente ai boss mafiosi che difende. Cioè, i boss mafiosi sono stati assolti dall'accusa di minaccia nei confronti di Saviano. L'avvocato invece dei boss mafiosi è stato condannato. È che un avvocato minaccia Saviano, un avvocato considerato dunque un uomo di camorra in questa sentenza, e non dice niente ai camorristi che difende. Che paese bizzarro, che paese bizzarro, come canta Fabri Fibra. Va bene, abbiamo iniziato con Fabri Fibra oggi, eh? Che ritmo! Alle 6:32 minuti siamo qui, questa è 24 mattino. C'è Lorenzo Nespoli in redazione, c'è il nostro alpino Peter Bescapè in regia. E che dire, potete mandare un messaggio al 349-238-6666 per raccontarci cosa state facendo. Noi stiamo qui a lavorare, ci sono tante belle notizie oggi dai giornali, a parte questa storia di Saviano, beh certo che poi approfondiremo nella segna stampa, ci sono notizie di cronaca, c'è anche il dibattitone sulla legge elettorale, non se ne può più, me lo metti subito il buon Oscar, per favore, dai subito, legge elettorale. Basta! Basta! Basta! Eccolo qui, questo era quello bello dei bei tempi, bello, bello, carico, carico. Allora, siamo qui, apriamo il Parlamento, dai, forza, apriamo questo Parlamento. Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi, grazie. Tanto io metto Giannino che dice basta, perché abbiamo qua uno che ci spiega tutto, in due secondi ci spiega tutto a noi, bifolchi della legge elettorale, gli ultimi sviluppi, il nostro Marione Adinolfi, eccolo qua, Marione. Non hai ancora studiato le nuove soglie di accesso al riparto dei seggi nella quota proporzionale? No, ma si fa, Lo so, lo so, pare che vogliono abbassare al 3%, quindi Alfano è contento, no, lo so. Vista, Alfano è contento. Di al tuo pubblico che non ne capisce nulla, cioè, mi pagano per farmi del male. Che devo fare? Cioè, mi pagano per farmi del male. Però io voglio salutare qui Marione Adinolfi, tra l'altro futuro direttore del giornale La Croce, poi ne parliamo. Quella che per me rimarrà la sempiterna, l'unica, immarcescibile, indimenticabile e intoccabile direttorissima Aurora Lussana, direttorissima, issimissima della Padania. No, come intoccabile, adesso, no, proprio intoccabile, no, dai. No, non in quel senso buono. Ah, toccabilissima Aurora. Buongiorno caro Milan, e come sempre un carissimo saluto ai tantissimi amici di Radio 24, la seconda radio più amata dopo Radio Padania Libera. Si sa, saluta anche Sammy Varin che fa un po' il pirla, no? e dice cose di me, non dice che dico che la zanzara mi fa schifo e non è vero, ma si sa, è un po' così. Ma era un omaggio nei suoi confronti e nella tua... La tua trasmissione è seguita anche da qualche amico leghista. Sai che omaggio? Cruciani mi ha chiamato incazzatissimo. Dice, ma come che vai a dire? Dice, ma no, non era arrabbiato assolutamente. Vabbè, ma è uno stato dell'anima quello di essere incazzato, quindi vuol dire. No, comunque saluto tutti, tranne i collettivi e centri associali, a tutti gli pseudo antagonisti, ovviamente. Ah, ecco. Sì, sì. Ad Adinolfi un saluto, sì. Anche un abbraccio a Mario Adinolf. Ma Aurora, dobbiamo toccare questo argomento, come poi parliamo di Salvini, come va? Come la Padania chiude, questa è la notizia, il primo dicembre? Sì, purtroppo dopo quasi 18 anni, aspetta che passo, che tiro giù. Ma infatti cosa stai ascoltando sempre? No, aspetta, il finale del Nome della Rosa, aspetta che tiro giù. Mamma mia, che tristezza. Addio, un film bellissimo e un libro ancora più bello, uno dei pochi libri che ho letto due volte. È meraviglioso. Perché noi non possiamo conoscere l'essenza delle cose, ma solo il loro nome. Anche il nome della Padania, che rimarrà a futura memoria, però insomma... Purtroppo col taglio imposto dal governo, dall'oligarchia renziana al potere, insomma, l'editoria legata ai territori, agli enti morali e anche le voci di partito non possono più sopravvivere. Hai capito, Adino, caduta la linea di Adinolfi, ma adesso lo recuperiamo. Cioè, ha detto il fondo per l'editoria è caduta la linea. Vabbè, ma ho capito, ma Aurora, cioè adesso la gente lo sai che fa una battaglia contro i soldi dati ai giornali di partito. Una legge, quella del 90, la 250, che istituiva queste risorse a favore del pluralismo dell'informazione, per garantire la democrazia devi garantire il pluralismo nell'informazione, sì, purtroppo sì. Oggi è un lusso anche il pluralismo nell'informazione, tutto un costo non più sostenibile, hanno deciso di tagliare, peccato perché gli accordi erano altri, dal governo Monti in poi hanno decurtato, falcidiato il fondo. Ho capito, hanno falcidiato il fondo, però qua sì. Marione, non stai piangendo soldi, però Marione, che dobbiamo fare, giusto? Che effetto ti fa? Sai, Aurora, mi piace molto perché in questi poche settimane hanno chiuso l'Unità, Europa, che è il quotidiano su cui io ho scritto per tutti i giorni per tanti anni, e ora anche la Padania, quindi al di là del colore, insomma, il dispiacere è forte. Allo stesso tempo io sono convinto che i giornali, per stare in piedi, debbano avere le condizioni di mercato, cioè avere i lettori e avere i costi adeguati al mercato. Perché la gente si lamenta, se no dice come, perché dobbiamo pagare soldi, no? E purtroppo ti sorprende. Mi dispiace molto che stia in piedi, ecco, questa è la cosa, insomma. Cioè, in un mondo perfetto la Padania dovrebbe reggersi perché ci sono tanti lettori leghisti e non leghisti che comprano la Padania. Ma io credo che negli anni siano stati dati fondi a tante testate, troppe testate, siano stati fatti troppi sprechi, quindi un riordino del fondo era necessario. Però c'erano degli accordi, quando tu stanzi 250 milioni per i cosiddetti giornaloni che possono fare i prepensionamenti e poi svuoti l'altro fondo, quindi insomma ci sono anche secondo me miopie nell'ambito dell'editoria, ma ripeto, insomma, mercato che ha vinto il mercato. Ha vinto il mercato, sentila come fa la finta felice, va bene Aurora, ma non ti abbattere, tra l'altro in parte Mario Adinolfi con un nuovo giornale, La Croce, e chissà mai, insomma, vice di direttore Aurora Lussana, non lo so. Ma tu sei il direttore, Mario, no? Certo, sono il direttore. E allora? Se vuole Aurora può venire. Si chiude una porta, se ne apre un'altra, chi lo sa. Finisco crocifissa, mi sa. Potrebbe essere. Mettete insieme. No, ma quando è che lo troviamo in edicola? Il 13 gennaio. Ma veramente, ma sono contenta. Vedi Aurora. 13 gennaio, La Croce. Io sono curiosissimo, quante pagine saranno? 8 pagine, un po' come il foglio, insomma, fate 4 pagine. No, mi pare un po' come il foglio, come foliazione, dai. Sarà molto più bello. Va bene, ma adesso sarà necessario 3 lauree per leggere. tre lauree, beh, questo non è male, non sarà necessario tre lauree per leggere, per leggerlo. Allora, sentite qua il buon Salvini come combatte, che è Aurora Lussana, Anche la Chienghe gli ha detto la solidarietà, la Chienghe, quella che ti chiamava qui, l'altra mia ospite quando abbiamo fatto il confronto. Senti qua Salvini, Salvini. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via. Marione, cosa non si fa per il voto in Emilia, nell'Emilia rossa, nell'Emilia Romagna rossa, Marione, bella ciao, bella ciao. No, no, guarda che la Lega c'ha. No, ma forte, però insomma lì, insomma, ho paura che il presidente sia già scelto, insomma, da partigiano. Aurora, vuoi cantare? Come sei intonata? Non conosco questo tuo No. Ma dai, ma bella ciao, ma c'è, cioè, ma Salvini che canta bella ciao. Ma noi siamo un movimento popolare, quindi anche la scelta della Camusso di sostenere il referendum voluto fortemente dalla Lega per abrogare la legge Fornero dimostra che noi siamo quei lavoratori che resistono, non con quei borghesucci convenzionali dei centri asociali. Eccolo lì, i borghesucci, squadristi rossi. Squadristi che hanno fatto rossi. La guata, Matteo, che a momenti il capo dell'opposizione ci lascia la pellaccia sabato, Il capo dell'opposizione sarebbe Salvini. Chi è l'unico che si oppone al Partito Unico del Nazareno? Ma questa cosa la vorrei sapere. Sapete che ieri Forchielli qui, Mariona Di Nolfi, ha detto: ma Salvini doveva, Salvini che mi è simpatico, doveva uscire a zuffarsi, magari pigliare due cazzotti in faccia, finire con 5 punti di sutura, ma finire da uomo, affrontare Salvini da uomo questa cosa. Marione, che lettura dai tu di quello che è successo sabato? Allora, il problema di un manipolo di, insomma, personaggi che a Bologna creano casino è un problema serio, secondo me. Poche settimane prima, senza il clamore che poi ha seguito la vicenda di Salvini, delle famiglie facevano le sentinelle in piedi a Bologna, sono state prese a bottigliate e sassate più o meno dagli stessi soggetti. Ora è un tema, io sono assolutamente sapete che io non ho la stessa opinione della Lega, insomma, questo mi pare abbastanza chiaro su tante questioni, ma è evidente che l'aggressione nei confronti di Salvini è intollerabile, è assolutamente una cosa gravissima e non credo dovesse scendere a fare a cazzotti per dimostrare la gravità della questione, insomma, oggettivamente una questione su cui chiunque prova a aprire anche solo la parentesi per dire atti, però ce l'è cercata, già è insopportabile, quindi figuriamoci quelli che andavano lì a picchiare o il tizio che adesso in maniera geniale cerca di denunciare Salvini per tentato omicidio. Ci sono dei casi anche giornali che si concentrano su quella che è Bologna, appunto Bologna, quel coacervo di, come l'hai chiamati Aurora, borghesucci? Beh, quando Matteo Salvini va a incontrare i terremotati, gli alluvionati che sono abbandonati e oggi si ritrovano anche le cartelle di Equitalia da dover pagare, capisce subito chi sta dalla parte del popolo e chi invece ha magari la fortuna di vivere di risorse proprie e così ciondolare tutto il giorno nei vari collettivi. Ho fatto scienze politiche, quindi insomma so bene cos'è. Anch'io, l'hai fatto alla statale di Milano? Sì, nell'osservatorio 7. Nell'aula fumo? Ti ricordi? Nell'aula fumo? Ma sì, però a me tiravano l'isoformio, quelli di centri sociali. L'isoformio? Sì, quando facevamo i banchetti del movimento universitario padano. Ah, facevi già, eri già leghista lì, sì. Qua. Mamma mia, ragazzi. No, beh, ma io sono entrata leghista dalle suore, ovviamente. Tu sei nata leghista, no? Sei nata leghista. Sono... Vabbè, insomma, ma a proposito di questa cosa dell'Emilia Romagna, c'è una sola domanda da porsi. Caro Mariona Di Nolfi, secondo te chi ha comprato il sex toy a spese nostre? 80 euro in un sexy shop? Uno dei consiglieri dell'Emilia Romagna andrà a giudizio per questo? Uno di buon gusto, almeno ci ha fatto qualcosa di decente. pare che sia la consigliera Rita Moriconi del PD, che però dice massacrare Rita Moriconi. No. No, buono, che peraltro dice: io sono una persona seria, non sono mai entrata in un sexy shop. Come se le persone serie non possano entrare in un sexy shop. Ma vorrei un commento. Abbiamo già messo la canzone, che tutte le volte quando Aurora Lussana, Aurora, si parla di amore e panico, capisci che è un sex toy da parte della consigliera del PD. Pare, anche se lei smentisce. Vorrei un tuo commento, un tuo editoriale, direttore. Tu sai che io temo la meccanicizzazione dei rapporti umani, affettivi, sessuali, quindi non so, la solitudine a volte ci porta magari anche a questi acquisti, quindi non lo so, non mi sento di condannarla questa donna probabilmente. Insomma. No, ma condanna no, ma no, ti pare no, una cosa... Non me la sento. Cioè sento. Con un sex toy a spese nostre si può fare? Però se serve a far del bene a sta donna va bene, un po' di solidarietà insomma... E vabbè, oh, questo è il commento, l'editoriale di Aurora Lussana, che si batte per l'amore panico. Io ho abolito i rimborsi nella mia redazione, siamo finiti lo stesso male. Cosa vuoi che ti dica? No, va bene. Viva l'amore panico, viva l'amore orgiastico e anche il sex toy per combattere la solitudine. Ecco, magari non a spese dei contribuenti potrebbe essere una soluzione. 24 mattino. Ce l'abbiamo con la Merkel e i tedeschi perché loro sono e sono stati bravi e accorti, mentre noi italiani siamo dei fancazzisti. Milan, al mattino alle 6:30 potresti ridere un pochino di meno e chiedere ai tuoi ospiti se è giusto che il governo elargisca, parliamo di bonus bebè, elargisca 80 euro alle coppie che portano a casa netti 5.500 euro? Oh, sento parlare del Nazareno, la cena. Speriamo che per Renzi non diventi anche l'ultima cena. Mira, dicevo una cosa, il capo dello Stato, ma non dobbiamo decidere noi chi mettere lì alla poltrona. Perché decidono sempre loro? Sì, è vero, l'Italia è pronta per una donna come Presidente della Repubblica. La Mussolini. Ma come? Gli imprenditori si lamentano dell'IRAP che pagano tanti soldi e poi spendono 1.000 euro per una cena. Cioè, ma loro questi soldi ce l'hanno o non ce l'hanno? Furbaccioni, eh? Caro Milan, la battaglia l'hai vinta, il poster lo devo comprare io. Auguri. Messaggio velato. Ospite di merda. Ospite di merda. Ospite di merda. Questo ultimo messaggio velato, non so, Marione, secondo te? Allora, almeno vedi, ti sforzo di essere simpatico, è carina questa cosa del messaggio trasversale, copiando lo stigma, va benissimo. Non lo so, a chi si riferiva secondo te, Marione? Diventa la Lussana no. No, secondo me la Lussana no, però, non lo so. Sono persone che mi vogliono bene e io ricambio, adeguato trasporto. Vuoi lanciare il tuo... Oggi bene a tutti, oggi c'è una segreteria telefonica un pochino brillante, finalmente c'era un po' di ragionamento piano educandoli a forza di picconate, forse finisce. Va bene, allora Marione, una cosa l'ho capita, come titolo alla stampa: Renzi vuole tirar dentro tutti con questa legge elettorale, i piccoli, i grandi, gli storti, i gobbi, gli alti, i bassi, cioè certo, tu basta che abbassi la soglia e chiudi la questione. Ma non dovevamo avere il bipartitismo, mamma mia. Abbiamo il monopartitismo. Che è diverso. Che problema c'è? Adesso che problema? Non hai capito. Renzi non ha più problemi, ha solo la necessità che rapidamente gli possa essere offerta la legge elettorale, in modo che oltre a tutto il potere che già dopo il 25 maggio la sua elezione a imperatore, ha anche una pistola carica da mettere sul tavolo e dire: adesso che vogliamo fare? Ho capito, ma allora la faccia la dittatura tra virgolette, ma cioè, perché... dittatura, ma la gente lo vota, cioè ho detto tra virgolette. Cioè, ma perché fare la legge elettorale, vabbè, ma Lussana, a te va bene, tirano dentro tutti, anche la Lega, a parte che adesso la Lega va bene, anche la Lega va bene, anche la Lega mi sa, va bene anche la Lega, eh? Aurora, te la ridi, ti va bene, eh? Sì, va bene, basta che poi la gente da votare, però, perché sai, noi ci abbiamo avuto il genocidio nel centrodestra e forse il centrosinistra o insomma il renzismo, chiamiamolo così, che meglio, ha vinto per desistenza di tutto quel l'elettorato lì che non è più andato a votare, quindi ha vinto per desistenza, non tanto per merito, per demerito altrui. No, ma non ho capito niente, ma vi va bene questa legge elettorale? Ma sì, dai, cioè, tira dentro anche la Lega, dai, tutti dentro. Bisogna capire, sto listino, in parte ci sono comunque nomi bloccati, in parte sì, perché dovrebbe rimanere, poi aprono invece le preferenze, boh, vediamo cosa esce dal Senato, vediamo. Va bene. Vediamo se allora sentitevi questo D'Alema, dai, D'Alema che è innamorato, dice Berlusconi è innamorato di Renzi, c'è qualcosa che non va, ieri era da Lilli Gruber, eccolo qua D'Alema. Il problema è che Berlusconi in questo momento è diventato il principale ostacolo all'esistenza di questa destra, diciamo. Quindi si è talmente innamorato di Renzi, diciamo, che lo ha scelto come suo erede, però a questo punto se il maggiore esponente dell'opposizione si innamora, pensa di essere governo, Marione, pensa di dire, di dare delle stilettate, no, su questa con i suoi di pietà di D'Alema la vede avere, diciamo, diciamo sei innamorato di Renzi, che due anni fa perché io me lo ricordo bene, insomma, c'ero anch'io in quella partita, due anni fa D'Alema andava alla stessa trasmissione a dire che avrebbe fatto la scissione se Renzi avesse vinto, che non era possibile fosse lui l'esperienza vincente della sinistra. Ora D'Alema due anni dopo è fuori da tutto, comprese le nomine europee a cui teneva tanto. Pure la Mogherini gli ha passato davanti. È stato sorpassato dalla Mogherini. Ora, voglio dire, cosa chiedete adesso? Che non abbia un minimo di risentimento. Ma no, ma per carità, ma succede in politica, è così. Però basta, ti fai da parte, che devi fare? Non è abituato. Quando lui ha detto rottamazione, quel ragazzo, la cosa tremenda è che l'ha rottamati davvero, capisci? È questa cosa. Un po' è così, Vabbè, non abbiamo parlato delle unioni gay usate come cavallo di Troia, ma questo è un argomento che tanto ad Inolfi ci torneremo, sai, Bagnasco, i cardinali così, ma qua... A coscienza, va bene, ma tanto sulla croce questa sarà pane per i tuoi denti. Aurora, qua dobbiamo salutarci, ci vuole la ricetta, e poi ti voglio su di morale, mi raccomando, tu no, sarai ma sempre... Ma io ho questa domanda, voi avete mai visto insieme Matteo Renzi e Silvio Berlusconi? Insieme, cioè nel senso fisicamente? No. Ma non è che sono la stessa persona? Ah. Io ho sto dubbio. Ah, beh, adesso no, ci io penso. Non li ho mai visti. Cioè, secondo te non esistono in realtà due persone distinte? Esiste una foto di loro due insieme? Di loro due insieme, una foto, adesso che ci penso. Credo di no. Cioè, si ritrova Renzi con Renzi. Stanno in camere separate. Diciamo. Vabbè, la ricetta, dai, dimmi la ricetta. La ricetta è che si va al mercato e si prende quello che c'è in offerta. Tempi duri, ragazzi. Ma salutiamo gli amici dell'Emilia Romagna, che oggi Matteo a Parma, nonostante le minacce di morte, non molla, ragazzo. Non molla. Vuoi salutare anche i centri sociali? No, saluto tutte le associazioni dell'antirazzismo, questa paranoica militanza antirazzista costituita da questi professionisti della violenza. Va bene, salutiamoli. Grazie, alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qua alle 7:20 minuti, siamo pronti a leggere i giornali, cari ascoltatori. Vi ricordo che oggi parleremo invece di indipendentismo. Ebbene sì, ieri ci ha molto colpito quando su Repubblica abbiamo letto di questo sondaggio per cui un italiano su tre vorrebbe l'indipendenza da Roma, l'indipendenza della propria regione. In alcuni casi, tipo in Veneto, si arriva al 52%. E lì addirittura faranno, credo, è stato promosso un referendum che non avrà valore se non consultivo, così tra gli elettori, per capire vi vorreste staccare da Roma. Ma davvero siamo un popolo così poco unito, molto meno di quello che dicono, intanto dice la politica e dice lo statuto di Repubblica Italiana, unica, una. Ne parleremo alle 8.15, ne parleremo alle 8.15 tra gli ospiti, avremo Massimo Cacciari, ma anche i portavoci di alcuni movimenti indipendentisti. E poi avremo anche alle 8.45 il nuovo segretario della UIL, Carmelo Barbagallo, che subentrerà ad Angeletti, credo formalmente settimana prossima. Ora andiamo però a leggere i giornali. In questo martedì 11 novembre intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre sul nuovo catasto, casa e nuove rendite, così cambia il catasto, è il titolo di prima pagina, mentre c'è chi punta ancora sulla legge elettorale. Corriere della Sera, legge elettorale, cambia il patto o il secolo XIX è più deciso, legge elettorale è intesa. Bah. Repubblica, Saviano, assolti boss, sono guappi di cartone, la vicenda che vedremo tra poco, mentre La Stampa manovra l'allarme dell'Unione Europea, addizionale IRPEF dal Piemonte, via libera alla stangata da 73 milioni. Per il Fatto Quotidiano invece L'Aquila, tutti assolti, le vittime hanno sempre torto, appello del terremoto del 2009 dove ci furono 309 morti, tutti assolti gli scienziati. Vogliono arrestare il patto invece, giustizia ridicola è il titolo del giornale, l'inchiesta su il patto del Nazareno. Il patto di Renzi, niente elezioni, è invece il titolo del Messaggero. Come vedete ogni giornale fa una scelta diversa, le notizie sono tante. Comincerei proprio dalla assoluzione dei boss e la condanna dell'avvocato dei boss per le minacce a Roberto Saviano, che è l'apertura di Repubblica, giornale per il quale Roberto Saviano collabora e per il quale fa un'intervista a pagina 2 con Cita Sannino, lo intervista. Ci furono minacce mafiose contro Saviano, è stato condannato l'avvocato, ma sono stati assolti i boss. Una sentenza che per qualcuno è un po' bizzarra, la definisce una sentenza epocale per la condanna dell'avvocato, un dato fortissimo, oggettivo, che emerge, viene utilizzato uno strumento processuale, in questo caso la legittima suspicione, per mandare un messaggio all'esterno. Ma certo anche lo stesso Saviano, intervistato da Repubblica, dice: la contraddizione però appare subito, resta una domanda gigantesca e inevasa. Se la Corte dichiara che un avvocato fa minacce per conto del clan, chi sono gli uomini del clan che l'hanno ordinato? Davvero un avvocato, considerato uomo di camorra, in questa sentenza fa una minaccia e può non rendere conto ai capi? Mi sembra tutto molto strano. Tra l'altro Ezio Mauro, direttore di Repubblica, fa un editoriale in prima pagina dal titolo «Chi ha paura delle parole», il cui messaggio è nel finale soprattutto, e scrive Ezio Mauro: «Per difendere la libertà della parola, Saviano non va lasciato solo in un paese cinico e invidioso, più immemore che inconsapevole». Saviano fa un'intervista anche alla Stampa, ieri si è presentato insieme alla senatrice Rosaria Capacchione, anche lei sotto scorta da quando era giornalista del Mattino per la stessa vicenda, e Guido Ruotolo che lo intervista sulla Stampa. Qui sulla Stampa Saviano dice cose anche un po' più dure. Soddisfatto a metà, dice: colpisce che un avvocato venga giudicato responsabile delle minacce con l'aggravante mafiosa come se fosse uno strumento del clan, e penso alla battaglia fatta e fatta in questi anni sulla possibilità di credere che le parole facciano paura. Sono soddisfatto a metà perché una sentenza storica fissa l'immagine di un avvocato utilizzato per fare una minaccia mafiosa e svela l'utilizzo di un'istituzione processuale, l'istanza di remissione per minacciare. Ma il bicchiere mezzo vuoto, i giudici riconoscono l'aggravante mafiosa, è molto importante, ma l'avvocato per quale ragione ha fatto queste minacce se non per conto dei casalesi? E effettivamente questa è la domanda inevasa di cui si parlava prima. Condannato l'avvocato, ma assolti i boss Bidognetti e Iovine, boss dei casalesi. Una vicenda un pochino controversa. Ma voglio saltare subito alla notizia che certamente raccoglierà l'interesse di tutti voi, ed è quella che avviene in Emilia-Romagna, dove tra due settimane si vota. E dove si vota le primarie, per quel che riguarda il PD, per esempio. Ma che succede? Beh, Spese folli per cene e sex toys. Questo è il titolo che certamente troverete su tutti i giornali. Sono state chiuse le indagini su 41 esponenti di tutti i partiti. Sono stati contestati acquisti per oltre 2 milioni di euro. Spese loro, soldi nostri. Il meccanismo è sempre quello, coi soldi del consiglio pagati, alberghi di lusso, fiori per funerali, cene, pranzi, ma su tutti potete immaginare vincono gli 80 euro spesi all'interno di un sexy shop. E alla fine, stringi stringi, viene fuori anche un nome, che è quello di Rita Moriconi, consigliera socialista per il Partito Democratico, che però si difende, intervistata da Repubblica, dice: io non ho mai comprato gadget erotici. La spiegazione peraltro è bizzarra: non ho mai messo piede in un sexy shop, sono una persona seria. Dal che si evince che solo le persone non serie, evidentemente per la consigliera Moriconi, entrano in un sexy shop. Comunque, io avrei comprato un sex toy, dice Repubblica, neanche per sogno, sono una persona seria, non ho mai messo piede in un sexy shop. Eccola qui, a me dispiace deludervi, ma non so di cosa stiate parlando. Eppure il giornalista di Repubblica insiste: ma signora, risulta che sia lei che abbia fatto questo acquisto in un sexy shop. Ma io sono una persona per bene, ho famiglia, faccio il mio lavoro politico, negli atti che ho in mano non risulta questa spesa. Ho l'elenco delle contestazioni sotto gli occhi, sostengono che abbia fatto spese irregolari, ma riguardante le solite cose contestate a tutti i consiglieri, viaggi non bene motivati, ma sexy shop, nessuna traccia. Ma come spiega questo scontrino? Ripeto, non ho mai messo piede in vita mia in un sexy shop, sono una persona seria. E due, e lo spiegherò ai giudici. Rita Moriconi si difende così. E tra l'altro è interessante l'intervista, sempre su Repubblica, a Stefano Bonaccini, candidato per il PD, candidato presidente, intervistato da Eleonora Capelli a pagina 23 di Repubblica. Sentite come si difende. Oggi per gli indagati ci sarà la garanzia di sapere cosa viene loro imputato, ma la domanda chiave, cioè, ci sono dei consiglieri indagati. 5 di questi nel PD si ricandidano. Si tratta di candidature definitive? Sentite la risposta di Bonaccini. Non credo proprio che si possano cambiare le liste a questo punto. Tra l'altro, i candidati che mi sostengono sono 204. 5 indagati? È un numero bassissimo. Eccolo qui. 5 indagati su 204 è una percentuale evidentemente accettabile. Per carità, sono indagati. Però certo, la domanda è proprio quella. Ma chi l'ha comprato allora? Questa Rita Moriconi dice che lei non è mai entrata in sexy shop, è una persona serissima. Chi è entrato in questo sexy shop? 80 euro, anche il Fatto Quotidiano, le spese hard dell'Emilia Rossa, un vibratore a carico nostro. In realtà si decide che è un vibratore, ma dallo scontrino non risulta. Ecco, bisognerebbe anche capire, per dovere di cronaca, che tipo di oggettistica è stata comprata in questo sexy shop. A spese nostre! Tra l'altro, a spese nostre, invece, c'è chi ha deciso, e il giornale dedica lui mezza pagina, di non vivacchiare, almeno per quel che riguarda la buona uscita. Si tratta dell'ex commissario europeo Antonio Tajani, che ha deciso, udite udite, di rinunciare alla buona uscita da 468.000 euro che gli spettava come, così, un TFR dalla Commissione Europea. C'è un politico italiano che rinuncia a 468.000 euro. Antonio Tajani, vicepresidente del Parlamento Europeo, scrive a Barroso, rifiuta la buona uscita che gli spetta, dicendo: caro Presidente, mi risulta che mi spetti una buona uscita da 468.000 euro, non la voglio ritirare per dare un segno di sobrietà. Beh, insomma, una cosa positiva. Ma il momento dell'articolo, mani sul volante, l'articolo che oggi veramente sarà di questa giornata, lo trovo sul Giorno, dove Nino Femiani racconta da Caserta la storia di una figlia uccisa e la madre umiliata. Gli è arrivata una cartella a casa: ora paghi le spese processuali. È la vicenda di Rosa Polce, che ha visto la figlia uccisa, Carmen. Il marito condannato per questo omicidio, occultamento di cadavere a 19 anni, marito condannato alle spese processuali, ma siccome risulta nulla tenente, l'agenzia delle entrate è andata a bussare a casa della madre della vittima. Toc toc. ci deve gentilmente 7.500 euro di spese processuali perché la controparte, cioè l'imputato, o meglio il condannato, risulta nullatenente. Questa madre dice: più che una beffa è un tradimento, devo pagare le spese di una giustizia che ha favorito l'assassino. Lui, peraltro, è diventato nullatenente perché in carcere due notai gli hanno fatto firmare procure con cui vendeva diversi immobili. Accusa: mi hanno ammazzato la figlia, ora lo Stato mi ammazza di nuovo togliendomi la dignità e chiedendomi 7.500 euro di spese legali. Poi voi dite se le mani le dobbiamo tenere ancora sul volante. Alessandro Milan, beh, siamo al top. Ma chi è questo? Grazie cari ascoltatori, care ascoltatrici, per tutto quello che ci mandate, le vostre siglette, i vostri spot, i vostri insulti, soprattutto sono molto molto graditi. Allora, che dire, è l'ennesimo giorno, è l'ennesima giornata in cui i giornali si concentrano su questa legge elettorale. Ci sarà, non ci sarà, voi sapete il mio tono della voce scema sempre quando si parla di questo. Le notizie che vi devo dare dai giornali sono: l'intesa ampia ma subito, Renzi dice domani ci sarà un nuovo round di incontro, giurano tutti i quotidiani. Renzi rivedrà Berlusconi per la settima, ottava volta, perché poi Renzi domani sera, no, mercoledì sera parlerà al partito. L'obiettivo è quello di trovare un'intesa sulla legge elettorale. L'obiettivo, secondo Renzi, sarebbe quello di andare in aula con la legge elettorale al Senato entro la fine dell'anno. Secondo Francesco Verderami, nel suo retroscena sul Corriere della Sera, pagina 3, Renzi avrebbe trovato una sorta di quadra per accogliere tutti, abbassando per esempio la soglia d'ingresso in Parlamento per le forze più piccole al 3%. Questo in qualche modo salverà anche Alfano, l'NCD e tutte le forze più piccoline. Verdini invece dice: non andate alle urne, ai suoi, non fate in modo che Renzi vada alle urne, se no poi ci ritroviamo Prodi al Quirinale. E poi non dite che non ve l'avevo detto, questa è la minaccia di Verdini a quelli di Forza Italia. Ma insomma sono tutti posizionamenti, riposizionamenti. Il secolo XIX giura l'intesa sulla legge elettorale c'è, forse appunto abbassando le soglie al 3%. Anche secondo La Stampa, la mossa di Matteo Renzi è: da Silvio ai partitini nessuno resti escluso. Per cui, secondo il Corriere della Sera, la soglia verrà abbassata al 3%. Secondo La Stampa, la soglia verrà messa al 4%. Sempre per favorire SEL e NCD. Insomma, sempre ve lo dico, se fino a qui non ci avete capito granché di legge elettorale, sappiate che siete circa nel 98% della media degli italiani. Quando ci sarà la legge elettorale, se sarà interessante, la si studierà, ma non sono leggi molto tecniche. Agli italiani interessa capire si deve andare a votare, non si deve andare a votare e chi votare. Il dilemma di Berlusconi, anche secondo Repubblica, racconta Tommaso Ciriaco, pagina 9, è questo: devo salvare l'intesa e nel frattempo non devo spaccare il partito Forza Italia. L'avviso appunto di Verdini, racconta Repubblica, è questo: se facciamo saltare tutto ci ritroviamo Prodi al Quirinale e poi non lamentatevi. Vabbè, intanto in questa follia che c'è, ma qui non si tratta di essere pro o contro il Movimento 5 Stelle, ma di considerare quello che secondo me si può considerare senza ombra di dubbio una follia, che una procura, la procura di Roma, indaghi su proposta, in questo caso di un parlamentare avvocato del Movimento 5 Stelle, Andrea Coletti, che è andato a consegnare tutta una serie di articoli, di prove, a suo modo di vedere, in cui si parla, ad esempio gli articoli in cui viene citato Renzusconi, sapete, dopo il patto del Nazareno, l'alleanza Renzi-Berlusconi, per dire c'è un attentato alla democrazia, reato di cospirazione, cioè mettere sotto indagine il patto del Nazareno. Ecco, voi ditemi se non siamo arrivati a una follia, se non siamo arrivati al fondo, quasi lo stiamo vedendo. Il dato di fatto è questo. Ovviamente, vabbè, i giornali adesso mi attaccheranno dicendo che sono anti-grillino, così risponderanno a tutti quelli che anche qui mi accusano di essere grillino. A me non me ne frega niente, in realtà, non sono né anti né pro. trovo però che sia ridicolo il fatto che ci sia una procura che indaghi per il patto del Nazareno. Staremo a vedere come la procura di Roma procederà su questa indagine che è stata aperta per il patto del Nazareno. Intanto D'Alema, niente, non gli va giù, continua a parlare. Ieri era ospite di 8:30 da Lilli Gruber. E come racconta Marco Palombi sul Fatto Quotidiano, a pagina 6, ha definito Renzi un episodio della sinistra e non certo un punto d'arrivo della sinistra. E poi ha detto: sono preoccupato, vedo un Berlusconi che ama troppo il Premier. Insomma, un D'Alema che evidentemente non ha sopportato il fatto di essere stato un po' messo da parte e quindi è sempre pronto a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Per la verità, c'è un'altra persona che è stata messa da parte da Renzi. Questo almeno secondo quanto racconta il Corriere della Sera, Paolo Valentino, a pagina 5. Quest'articolo è interessante, è un retroscena, c'è solo sul Corriere della Sera. E questa persona che è stata messa da parte da Matteo Renzi è Romano Prodi. Quegli incarichi mai arrivati a Prodi, il Premier e il distacco dal professore. Per la verità, il Corriere parla di grande freddo tra Prodi e Renzi perché Palazzo Chigi, soprattutto attraverso il sottosegretario Del Rio, aveva contattato Prodi per dargli un incarico da mediatore nel caso Ucraina-Russia e soprattutto gli aveva promesso Palazzo Chigi un incarico da mediatore sulla vicenda della Libia, uno dei paesi che Prodi conosce meglio. Risultato, dopo i primi contatti, Palazzo Chigi silenzio totale. Da allora pare che Prodi è rimasto scottato ed è rimasto basito da questo silenzio dopo le promesse. Palazzo Chigi non è andato avanti sull'ipotesi di farlo mediatore in Libia e in Ucraina e infatti poi il segretario generale dell'ONU ha nominato per esempio il diplomatico spagnolo Bernardino León mediatore sul caso Libia. Allora pare che Prodi se la sia legata abbastanza al dito nei confronti di Renzi. Tutte cose da trame oscure, Mauro Meazza, trame oscure. Beh, adesso, la politica. Insomma, buongiorno Alessandro, sì. non esageriamo. Non esagero, rientra in me. Anche a me hanno fatto tante promesse, per dire, anche, no? Ma chi, cosa? L'Inter terza in classifica? Ma no, magari quando ero più giovane delle signorine mi hanno promesso tante cose, poi dopo non sempre si riesce, capita, sono le cose della vita, insomma. Vabbè. Non a te, che certo sei un personaggio pubblico, famoso, hai le foto sui giornali, quindi senti, ti volevo segnalare, se senti degli annunci è perché sono in stazione, quindi... Infatti, a posto? Sì, viaggiamo, ogni tanto viaggiamo anche noi, tutto a posto, sì. Ti volevo segnalare, la produzione industriale Malino oggi, sul Sole 24 Ore, meno 2,9% sull'anno, è andata un po' meglio ai vestiti. Stai comprando degli abiti, Alessandro, stai investendo? Magari una camicia... Però insomma siamo cresciuti, siamo in crescita con l'estero, ma un pochino anche il mercato domestico, anche se ancora troppo poco, ma trovi tutti i particolari sul Sole. Poi se vuoi finalmente rimpatriare quei 2 euro che hai messo alle Cayman, non mi ricordo dove, sì, mi hai detto che li hai messi, sì, ecco, guarda che ci sono le bozze della voluntary disclosure. Che ecco, è una cosa abbastanza importante perché consentirà il rimpatrio dei capitali che ti sei dimenticato di segnalare al fisco, perché può capitare, come i dinieghi delle signorine che dicevo prima. Sappi che tra un mese il divorzio diventa anche dal sindaco. Dove l'ho letto questo? Ma forse su Norme e Tributi? Esattamente, proprio su Norme e Tributi, perché è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, sono state pubblicate le norme sul divorzio facile, quindi con l'avvocato, con la negoziazione assistita, ma anche dal sindaco. Decorrenza 11 dicembre, vedi che le cose cambiano, tu che sei sempre così pessimista, parli di settimane decisive e ci sarà finalmente un giorno decisivo. No, ma scherzi, ma questa è una cosa alla quale gli italiani guardano con molta attenzione, molto più della legge elettorale. Temo che incida più direttamente nella vita delle persone, non che la legge elettorale non lo faccia, però questa forse è un po' più popolare. Bene, io a questo punto mi allontanerei verso il treno, se sì, non abbiamo... Salutami tutti i bambini che sente sottofondo, saluta tutta l'Italia, Mauro Meazza alla stazione centrale di Milano, lo potete trovare. Per quanto possa interessare agli ascoltatori, però è così, è la verità. È Alessandro Milan, bellezza, e tu non puoi faccio niente. Niente. Eccolo là. Eccolo là. Niente. Allora, sul foglio c'è una lunga intervista al presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. L'intervista la trovate in prima pagina, poi continua a pagina 4 l'intervista di Marco Valerio Loprete. Squinzi parla un po' tutto campo, di Renzi, del sindacato, sull'IRAP. Renzi, non ci faccia scherzi, giudico positiva la spinta che ha tentato di esercitare, sugli effetti poi vedremo per quel che riguarda Bruxelles. Sulla questione della legge di stabilità, dice Squinzi, alla domanda infastidisce l'accusa al governo di aver scritto la legge di stabilità sotto dittatura degli industriali, non la reputo un'accusa per l'esecutivo innanzitutto, dice Squinzi, le 150.000 imprese di Confindustria vogliono prima di tutto che il paese ritrovi un sentiero di crescita, i miei associati sono stufi di chiudere linee produttive e stabilimenti. Sulla stabilità il discorso più innovativo resta l'eliminazione della componente lavoro dall'IRAP che chiedevamo da molti tempo, e nello stesso senso va la decontribuzione per i primi 3 anni dei nuovi assunti. Anche il Jobs Act lo definisce positivo. È lo shock necessario, sono misure che ci avvicinerebbero a una competitività normale, utili dunque per rientrare nel novero di quei paesi che già oggi stanno crescendo. Poi parla della sua esperienza industriale della Mapei, mi ci sono voluti 7 anni per ampliare ciascuno dei miei 2 stabilimenti principali in Italia, uno poco fuori Milano, uno a Latina. Il tempo però non è un lusso per noi imprenditori, io sono riuscito ad andare in produzione solo nel 2011 e nel frattempo sono stato rimpiazzato per qualche anno da concorrenti tedeschi. La chiusa di questa intervista del presidente di Confindustria è dedicato al sindacato che negli ultimi tempi si sta spostando a proposito di lavoro e fisco su posizioni antistoriche da risorgimento o forse da medioevo. Così il presidente di Confindustria è intervistato dal Foglio, lo trovate in prima pagina. Mi ha molto colpito a proposito di pensioni, udite, questa era da Mani sul Volante anche questa, poteva vincere, ha concorso fino all'ultimo, non ha vinto, ma Gian Antonio Stella racconta in prima pagina del Corriere, l'INPS rischia un tesoro, che succede? Un comma sparito, mamma mia, quei commi che succede, che spariscono, via. Cancellato il tetto alle pensioni più ricche. Gian Antonio Stella racconta questa storia di burocrazia, pagina prima del Corriere della Sera e poi continua interamente a pagina 23, riguarda le pensioni più alte, quelle persone che potevano andarsene con il vitalizio più alto, 40 anni di contributi, ma restavano in servizio, che potevano incrementare ancora la futura pensione ma non sfondare l'argine che esisteva per le pensioni costruite col vecchio sistema, cioè l'80% dell'ultimo stipendio. Ma è saltato un comma, è stato tolto, e quindi coloro che vanno in pensione fino a 75 anni, in gran parte docenti universitari, magistrati, alti burocrati dello Stato, potranno farlo andando in pensione non con l'80% della media delle ultime buste paga, ma potranno superare, arrivare al 105, al 110, al 115% dell'ultimo stipendio. Giusto per fare un esempio numerico, chi andava e poteva andare in pensione con 33.937 euro al mese potrà riceverne, grazie a questa quota, di 36.318. Chi ha fatto sparire questo comma che limitava l'80% degli ultimi stipendi la pensione e ora lo fa sforare fino al 100, il 115, il 110%? Vai a saperlo, scrive Gian Antonio Stella. Il comma è sparito, costerà tutto ciò 2 miliardi e mezzo nei prossimi 10 anni alle casse dell'INPS e quindi alle casse degli italiani per le pensioni più ricche. Allora, c'è di cronaca l'assoluzione in appello per tutti gli scienziati che erano stati condannati in primo grado per la vicenda del terremoto dell'Aquila. 309 morti, una tragedia immane, questo lo sappiamo, ma come si è spesso detto, la scienza non può prevedere i terremoti. E per questo gli scienziati che erano stati accusati di avere sminuito l'allarme in appello erano stati condannati, ora sono stati assolti in appello, in primo grado condannati, assolti in appello. Tra gli assolti, racconta Giuseppe Caporale, c'è Enzo Boschi, ex presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica, che tira un sospiro di sollievo a pagina 21, risponde anche a coloro che gridavano vergogna ieri in aula. Lui risponde, intervistato da Repubblica: posso solo immaginare l'immenso dolore di chi ha perso i propri cari nella tragedia, ma prendersela con gli scienziati non credo serva molto. Il fatto non sussiste, dice la Corte. Ho sempre sostenuto che noi scienziati in quella maledetta riunione avevamo fatto solo il nostro lavoro. Forse altri non hanno fatto lo stesso. Noi scienziati siamo stati usati, dice ora Boschi. Quella che ci fu all'Aquila il 31 marzo 2009 fu una riunione politica, tra virgolette. Fu una scelta della Protezione Civile che volle rispondere agli allarmi di un imminente terremoto lanciati da quel tecnico, Giampaolo Giuliani. Io non avrei mai fatto di negare il terremoto, non avrei rassicurato, e non fu riportato all'opinione pubblica quanto accadde in quella riunione. Io e il mio collaboratore Selvaggi ci presentammo con cartine, documenti, c'era il sindaco dell'Aquila, Cialente, che era presente, ha testimoniato che era rimasto talmente impressionato dalle mie dichiarazioni sul rischio sismico che chiuse alcune scuole, decise lo stato di emergenza. Insomma, noi non fummo superficiali, producemmo materiali utili alla comprensione del fenomeno. Lei però in quella riunione disse che una scossa imminente era improbabile. Certo, spiegai che era improbabile, ma che non si poteva escludere. Insomma, si difende così. Boschi dice: siamo stati usati. Comunque io la gente non l'avrei rassicurata. Trovate molte pagine di cronaca su questo, e trovate anche il premio La Carta Costa anche oggi sui giornali, l'articolo più inutile a mio insindacabile giudizio. La mia amica Lorenza Castagnieri non è la prima volta che vince, vince una paginata sulla Stampa, pagina 19, un'intera pagina per raccontare le vecchie cabine telefoniche, quelle che usa ancora la Camusso, evidentemente con gettone, secondo Renzi. Le vecchie cabine telefoniche non sono morte, diventano in alcuni casi bibliocabine dove si mettono i libri, o in alcuni casi diventano che cosa? Punti d'incontro, punti d'incontro, incontratevi in una cabina telefonica. Ma chi se ne frega? Mattino. Sono le 8 e 19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua. Davvero siamo un paese di mille campanili, di indipendentisti, di separatisti. Mi ha molto colpito leggere ieri su Repubblica, sull'onda di quello che è successo in Catalogna, dove 2 milioni di persone sono andate a votare in un referendum, che era un referendum così simbolico, quello che è il sondaggio pubblicato da Ilvo Diamanti, secondo il quale un italiano su tre è separatista, vorrebbe l'indipendenza della propria regione. In alcune regioni questa percentuale sale davvero notevolmente. Pensate, in Veneto 53 veneti su 100 sentiti in questo sondaggio dei Ilvo Diamanti vorrebbero l'indipendenza del Veneto, ma anche in Sicilia 44 siciliani su 100, dunque quasi la metà. Davvero siamo un popolo così disunito? È in atto un'azione congiunta di tutto il fronte italiano per sferrare un attacco di sfondamento su tutta la linea. Sergente! Sospenda ogni altro ordine se non il mio! Com'è bella montagna stanotte, bella così, non l'ho vista mai. Domenica sono andato a vedere Torneranno i prati di Armando Olmi, un film straordinario in cui sentite alcuni suoni. Un film che racconta la prima guerra mondiale, un gruppuscolo di militari italiani su un fronte sperduto ad alta quota, italiani per l'appunto, veneti, friulani, piemontesi, napoletani come il militare che canta. Davvero questa Italia non c'è più? Intanto lo voglio chiedere a Michele Favero, che saluto, è portavoce primo consigliere di Indipendenza Veneta. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Questa Italia non c'è più? Ma innanzitutto io direi che c'è una definizione sbagliata, perché non è che siamo un popolo disunito, siamo proprio diversi come popoli. Il nostro è un popolo, il popolo veneto, che è un popolo da 1100 anni, che ha avuto 1100 anni di storia. E vorrei ricordare che siamo stati aggregati all'Italia 5 anni dopo che si chiamava Regno d'Italia. Allora non è corretto dire che siamo disuniti. Noi siamo sempre rimasti un popolo e siamo stati aggregati con un plebiscito truffa. Lei l'ha visto il film di Herman Holmi? No, non immagino. Non l'ho ancora visto, ma comunque ci sarebbe molto da dire. Intanto grande rispetto per i morti, ovviamente, per tutti. Tra l'altro, guardi, le dico sinceramente che io ho più amici magari oltre il Veneto che non in Veneto. Ma non è l'indipendenza del Veneto, non è contro l'Italia. Servirà proprio per gratificare, per rigenerare anche l'Italia, perché questo Stato è uno Stato che è tecnicamente fallito, chi dice il contrario dice delle bugie. Noi non siamo contro l'Italia, siamo per salvare la dignità dei veneti e perché lo Stato italiano esca dal Veneto. Favero, che lo Stato italiano, qualcuno dice, sia fallito, questa è un'altra questione e si può anche affrontare se vuole, però lei dice la risposta a questo fallimento dello Stato unito vorrebbe dire ripristinare una dignità al popolo veneto. Assolutamente sì, ma mi sembra che i numeri parlino chiaro, che ci sono stati dal 2008 ad oggi 23.000 aziende che in Veneto hanno chiuso. Non abbiamo mai visto una pressione fiscale così alta. Come lei ben sa, il Veneto è una regione virtuosa perché qui le tasse si pagano e le pagano quasi tutti, a differenza di molte altre regioni d'Italia. Sì. Non vedo perché dobbiamo restare legati a uno Stato che sta distruggendo e smantellando il nostro tessuto economico sociale, che è fondato sulla piccola impresa. Voi siete proprio per l'indipendenza. Assolutamente indipendenza. No, ma rimanga con noi, abbiamo tempo per approfondire. Non è contro, però vorrei precisare, non è contro l'Italia, servirà per rigenerare l'Italia. Noi siamo un popolo che ha una storia, ripeto, di 1100 anni, si chiamava Repubblica Serenissima, perché qui si viveva bene. Oggi mi dica lei, in Italia, in qualsiasi posto, dove una persona e dice che si vive bene, forse dentro ai palazzi romani, allora lì ancora su questo può vivere posso bene. Essere d'accordo con lei, la risposta, la questione è se la risposta giusta al fatto che si viva male è l'indipendentismo, ma questa è la sua convinzione e tra poco approfondiremo. Mi lasci presentare Giuseppe Chanò, che è segretario generale del Fronte Nazionale Sicilia Indipendente. Buongiorno Chanò e benvenuto. Buongiorno. Lei che ne pensa di questo sondaggio letto su Repubblica, secondo il quale 44 siciliani sarebbe... Essere sincero, mi sembra un po' azzardato, insomma, questo sarebbe bello se fosse così, ma non lo è, secondo me. È dura, diciamo, la realtà è molto più amara, cioè la gente ha perso un po' nelle varie regioni d'Italia, nelle varie nazionalità che hanno composto l'Italia, ha perso un po' il senso, diciamo, la consapevolezza di se stessi. Quindi quel sondaggio mi pare molto, ma molto strano. Però devo dire questo, noi non ci riferiamo, come ha detto il Veneto, diciamo, non ci riferiamo ai campanili, ci riferiamo, almeno noi indipendentisti siciliani, alle nazioni che hanno perso la loro individualità, la loro statualità, perché diciamo, non bisogna troppo generalizzare, perché sennò si ridicolizza l'indipendentismo, che è una cosa seria, insomma, quando mi dica perché la Sicilia dovrebbe essere Chanò? Ecco, interlochiamo. Mi dica perché la Sicilia dovrebbe essere indipendente. Guardi, innanzitutto perché ha una posizione geografica, interessi, una storia, un'individualità differente da quella che è il Nord Italia, il Centro Italia e via dicendo, cioè ha bisogno di una strategia siciliana, la Sicilia, per l'economia siciliana, ha bisogno, non lo so, di una politica culturale siciliana per risolvere i problemi della Sicilia, cioè lo Stato deve rispondere alle esigenze del popolo che tiene con sé, non è che può rispondere, insomma, noi diceva un economista siciliano, per esempio, che era Frisella Vella, negli anni 40, quando il separatismo veramente aveva la maggioranza del popolo siciliano, sì. Diceva quando in Italia si parla di interesse nazionale non si intende anche la Sicilia e il sud, si sente il nord Italia, si sente il centro e il nord Italia. Vabbè, ma non va bene l'autonomia? Non basta l'autonomia? No, non basta. Intanto devo precisare che io sono molto critico anche verso i siciliani che tradiscono la Sicilia. Insomma, l'autonomia non basta perché non ha, non, intanto non è stata mai applicata, quindi questa è un'altra cosa, c'è l'incostituzionalità di tutte le strutture statali e regionali in Sicilia per il fatto che l'autonomia non è stata mai applicata integralmente ed è stata violata illegalmente. Sì. Si pensi alla soppressione dell'Alta Corte per la Sicilia, che è una Corte Costituzionale di grado inferiore, ha delegittimato e annullato la Corte. Sì, comunque lei dice ci vuole un'indipendenza per rispondere agli interessi, alle esigenze del popolo, ma voglio dire, ma siamo un'Italia unita e quindi le esigenze dovrebbe essere il popolo italiano e quindi le esigenze dei popoli che costituiscono lo Stato italiano. Vorrei tornare per questo però in Veneto. Favero, le chiedo questo, il Consiglio regionale del Veneto mi risulta che si è impegnato per fare un referendum, che sarà un referendum per la verità. Diciamo che più che il Consiglio ci siamo impegnati noi. Vi siete impegnati voi. Abbiamo scritto il progetto di legge 342 che poi è diventata legge 16 del Consiglio regionale del Veneto. Sì. Però le sì. chiedo, questo sì. ovviamente sarà un referendum così che non avrà alcun titolo legale, ecco. Allora, qui andrei piano, ma la discussione sarebbe un po' come in Catalogna, un po' come in Catalogna. No, assolutamente no, anche se è un referendum consultivo, si tratta poi di un diritto inalienabile, di un diritto naturale che è paragonabile al diritto alla vita, il diritto all'autodeterminazione. Allora io non sarei così leggero. Intanto in Catalogna, per quanto si voglia dire che è simbolico, hanno votato comunque 2.236.806 persone. E se l'80% di queste ha detto di volere l'indipendenza, mi sembra sia un grande atto politico e non è trascurabile la cosa, anche se è un sondaggio. È inutile sminuire una cosa che invece è una portata. Non è questione enorme. Di sminuire, però in Scozia no. Se avessero vinto i sì ci sarebbe stata un'effettiva indipendenza nel giro di qualche anno. In Catalogna no, lo statuto è diverso, voglio dire. Ma così, certo, ma diciamo così anche che in lo Veneto. Stato, ecco. Diciamo che lo Stato spagnolo, come l'Italia, invece dimenticano il diritto, continuano a fare leggi su leggi, sono stati ottocenteschi destinati al fallimento, che invece di apprezzare il diritto, invece di far votare il popolo, si arrogano su delle leggi. Su delle leggi che mai hanno scritto persone che sono ai porte e dobbiamo continuare sempre questi vincoli. Come però se mi faccia capire una cosa, Favero, che poi andiamo in pubblicità e riprendiamoci, raggiungerà anche Massimo Cacciari. Certo. Quanto costerà questo referendum se si dovesse fare in Veneto? No, allora a noi hanno dato una cifra ai funzionari del Veneto stimata in 14 milioni di euro, che paradossalmente lo stesso referendum che poi hanno proposto anche per l'autonomia costa 3.950.000. Ma purtroppo non abbiamo, a distanza di 4 mesi per una nostra legge, non abbiamo ancora visto i capitoli di spesa, sì. E di questo dovremmo chiedere conto alla Giunta regionale del Veneto. Sembra dimenticarsi di questo, sì. E soprattutto non abbiamo ancora capito come hanno quantificato questi 14 milioni e non viene fatta nessuna propaganda. Vabbè, diciamo, andiamo al ribasso, se anche fossero sì. 10 milioni di euro, perché dobbiamo pagare 10 milioni di euro per un referendum che non ha valore legale, peraltro? Non è un po' denaro scialacquato? Ripeto, no, non è assolutamente denaro scialacquato. Se poi teniamo conto che i veneti hanno un residuo fiscale di 21 miliardi, 10 milioni di euro sono bazzeccole. Si possono usare per altre cose. E tra l'altro sono il referendum prevede erogazioni liberali fatte da cittadini e imprese. Allora alla comunità non costa niente, che è una donazione spontanea che si fa. Sì, una donazione spontanea. E non sono soldi scialacquati. Poi, ripeto, se non vediamo i capitoli di spesa, può essere che il referendum, se riusciamo ad avere, ad esempio, come abbiamo proposto noi, gli scrutatori a titolo gratuito, se riusciamo ad avere degli imprenditori che si sono già proposti a stampare... Costerà molto meno. Costerà molto poco. Va bene, si fermi qui, c'è la pubblicità, rientriamo tra un attimo. 800 24 00 24. Siamo davvero un paese di indipendentisti, come emergeva ieri da un sondaggio di Repubblica, o forse, come ci ha detto anche il nostro ospite Chanò, forse è un sondaggio anche troppo ottimista dal suo punto di vista, cioè non è poi così vero che siamo così tutti indipendentisti. 24 mattino. Oh, ma bella montagna stanotte, bella così, non villaggio di Stamaia. Insomma, il canto del soldato napoletano, italiano, nel gelido buio che avvolge l'avamposto militare narrato da Ermanno Olmi in Torneranno i prati, mi sembra la degna colonna sonora, una puntata in cui parliamo di indipendentismi, di voglia di indipendenza. Vorrei salutare Federico che ci chiama da Treviso. Buongiorno Federico. Buongiorno Milan, buongiorno. Che dire, io sono un nipote di nonno calabrese e nonno veneto, sì. Sono conosciuti al fronte e io e i miei fratelli siamo testimonianza di questa amicizia che è nata all'epoca. Sono cresciuto tra una calabresella e la famiglia dei Gobon, quindi anche culturalmente c'è stata questa mescolanza per il quale non avevamo mai avuto problemi. Voglio solo ricordare che dopo la guerra, la prima guerra mondiale, dal sud arrivavano i pacchi di olive, farina, ceci, per aiutare le famiglie del nord che dopo la guerra certamente... Però Federico, quell'Italia che è stata straordinariamente anche narrata da Ermanno Olmi in questo film, vi consiglio, andate a vederlo, c'è ancora o le fa effetto leggere che un italiano su tre sarebbe indipendentista? Secondo me c'è ancora, assolutamente, e questa voglia di indipendentismo, ma non lo so, io personalmente non la sento, ma non come io personalmente, ma intorno a me non ho questa sensazione. Lei non la sente. Allora, no. Qui siamo, come detto, con Michele Favero, portavoce Indipendenza Veneta, e Giuseppe Scianò, segretario generale del Fronte Nazionale Sicilia Indipendente, ma voglio salutare il professor Massimo Cacciari. Buongiorno, professore. Buongiorno. Esiste questa Italia narrata da Ermanno Olmi, non so se lei ha visto il film, ma insomma è il racconto della prima guerra mondiale, di quando i nostri nonni fecero l'Italia. Oppure è rimasto colpito anche lei a vedere che gli italiani vorrebbero tanto questo indipendentismo, questo separatismo? Ma, al di là delle chiacchiere, delle nostalgie che hanno il senso che hanno, cioè nessuno, il problema è che l'Italia si sta sfasciando, cioè, questo è il dramma, si sta sfasciando, cioè la situazione di tutti i differenziali tra nord e sud stanno aumentando, la voglia di indipendentismo non fa altro che fotografare una situazione purtroppo del tutto reale, cioè che ogni politica di autentica unificazione è fallita e sta fallendo. Questo è il dramma, se vogliamo ragionare sulle cose, non sulle idee più o meno strampalate in testa a questo o quello. E la risposta quale sarebbe? Ma la risposta era il federalismo, un'autentica riforma in senso federalistico che responsabilizzasse ogni regione, che costruisse le macro regioni. Questo è tutti i veri federalisti, da sottoscritto a Miglio, eccetera, quello che ragionavano fin dall'inizio degli anni Ottanta. La grande riforma federalistica totalmente fallita, di cui più nessuno parla, e non parlando più seriamente di questo, è chiaro che ci sono tutti i nostalgici di questo mondo, tutte le chiacchiere di questo mondo, tutte le ideologie più o meno sgangherate che hanno nulla a che fare col mondo contemporaneo, che non capiscono assolutamente nulla, che in un periodo che in un'epoca di globalizzazione gli staterelli, i nazionalismi non hanno alcun senso, che chi dominerà il mondo del futuro saranno i grandi imperi, i grandi spazi imperiali, e così ci sono i poveracci che chiacchierano, ma lasciamoli perdere. Cioè il vero problema è che in Italia abbiamo fallito la riforma delle riforme, quella autenticamente federalista. Il fallimento di questa riforma, secondo lei, produce questi movimenti che sempre più alzano la voce? Ma certamente sì, come in Spagna ad esempio, come in Gran Bretagna, no? Cioè dov'è che questi indipendentismi sono stati battuti, tutto sommato? In Gran Bretagna, ma perché? Ma perché la Scozia e in Gran Bretagna sono riusciti a fare un autentico federalismo. La Scozia è davvero una regione economicamente del tutto autonoma e indipendente, e sono riusciti a battere quelli del referendum in Catalogna, in Catalogna no, e eccetera eccetera. Le chiedo però che effetto... Soltanto i paesi in Germania, non ci sono mica indipendentisti in Germania. No, certo, perché lì hanno Iland. Le chiedo che effetto le fa vedere che, almeno stando al sondaggio di Voldiamanti, nel suo Veneto il 53% almeno di quelli intervistati, quindi più della sono metà, sono pochi rispetto, ripeto, non è con questo che dia ragione agli indipendentisti, io li prendo come un sintomo, li analizzo come un sintomo, serenissime eccetera eccetera, non hanno alcun senso, sono cose semplicemente ridicole nel merito, ma sono un sintomo reale reale, realissimo. E guai a prenderli così alla leggera, perché appunto dicono puttanate. Ah, lei dice favero, ha sentito, insomma siete un sintomo, però in fondo quello dite secondo Cacciari. Puttanate che ho sentito sono quelle proferite da Cacciari, ecco, perché non la metta sul piano personale. No, ma visto che lui ha parlato di puttanate, allora rammento a Cacciari che gli stati che vivono bene sono proprio gli stati più piccoli, che hanno un prodotto interno lordo più alto degli altri e che vivono bene perché riescono anche a dare delle risposte ai cittadini. Allora la sua fantomatica visione degli imperi forse è solo nella sua fantasia. Ma la risposta federalista, secondo me, Favero, non è una risposta giusta? Ha risposto bene Cacciari. Da 20 anni sento parlare di federalismo e lui dice, è fallito. Esatto, è siccome è fallito, ci sono questi rigurgiti indipendentisti, ma quella potrebbe essere la giusta soluzione. Non è assolutamente vero. Innanzitutto dobbiamo tenere conto di una cosa, come sento parlare qualcuno di autonomie. Sì. Allora, per avere l'autonomia, che tra l'altro dovremmo chiederla, cioè riconoscere la superiorità dello Stato italiano, il Parlamento italiano, questo Parlamento dove abbiamo dentro di tutto, dovrebbe riunirsi in seduta due volte con maggioranza qualificata. E secondo lei uno Stato che ha bisogno anche del TFR e dei dipendenti per non fallire ormai, secondo lei regala 21 miliardi al Veneto di residuo fiscale? Ma per carità, non diciamo fesserie. L'autonomia e il federalismo sono delle fesserie. Sono fallite, non vengono applicate. Giuseppe da Catania, buongiorno Giuseppe. Sì, buongiorno. Grazie. Io invece avevo una proposta shock, come dice Guidi, ed è quella di cedere alla Sicilia come hanno fatto con l'Italia, perché in questo modo gli italiani non piangerebbero, i leghisti sarebbero contenti, i siciliani forse troverebbero chi può finanziare il turismo. Ma anche a chi cederla? A un fondo sovrano, a un altro paese. In Grecia hanno venduto le isole, perché anziché l'Italia vendere le caserme. Questa proposta shock, Giuseppe, Chanò vuole rispondere a questa proposta shock, voglio ricordare, Chanò, Fronte Nazionale Sicilia Indipendente. È anche siciliana al 100%, perché dimostra una mentalità di autocolonialismo, cioè noi diciamo in questa conversazione interessantissima, che cosa è rimasto fuori? È rimasto fuori che la Sicilia e il meridione d'Italia, a differenza delle altre regioni, sono state conquistate per distruggere l'economia, l'identità statuale, la cultura, gli interessi di quelle zone, dell'ex regno delle due Sicilie. Diciamolo francamente, non è la stessa cosa. Il Veneto certamente non voleva l'unità d'Italia, però non ci ha perso. La Lombardia non voleva l'unità d'Italia, o la Toscana non volevano l'unità d'Italia. Ma come si dice che ci stanno guadagnando? Anche perché è stato Chanò, ci sono moltissimi che ascoltano e dicono che pagano le tasse, per mantenere gli sprechi siciliani, gli sprechi della Campania. Ma d'altra parte loro hanno impedito, chi ha gestito lo Stato ha impedito lo sviluppo del Sud, ha impedito lo sviluppo della Sicilia, non c'è un trattato internazionale, a cominciare anche dalle formazioni europee, no? Quando si fece il MET, quando si fece questo, per i siciliani e per i meridionali c'era solo la proposta di emigrare. Quindi impedendo lo sviluppo del Sud, lei dice, ma impedendo lo sviluppo del Sud bisogna mantenerlo, la dico io come frase. Però vorrei concludere col professor Cacciari. Professore, secondo lei li stiamo sottovalutando tutti questi rigurgiti indipendentisti? Ma stiamo sottovalutando i sintomi di decadenza e di crisi strutturale di questo paese, tra cui appunto la crescita di differenziali col Sud. Il signore di Catania di prima ha ragione su un dato: quando ci fu l'unità d'Italia il reddito pro capite del Veneto era nettamente inferiore a quello delle regioni meridionali. E quindi non c'è dubbio alcuno che l'unità d'Italia si sia fatta in gran parte contro gli interessi di molte delle regioni meridionali, non c'è dubbio. Poi nel corso della storia i rapporti rapporti però oggettivamente si sono rovesciati. E dà ragione l'indipendentista veneto quando dice appunto che il residuo fiscale delle regioni, cioè che oggi come oggi Lombardia, Veneto e in minima parte Emilia Romagna e Piemonte finanziano il paese, quindi sono altrettanto dati di fatto di quelli che ricordava l'amico di Catania, cioè che al momento dell'unità le regioni meridionali in gran parte erano più ricche di quelle di alcune, non della Lombardia o del Piemonte, ma per esempio del Triveneto sì. E quindi non c'è dubbio alcuno che è stato sono state politiche meridionalistiche sciagurate, politiche di carattere assistenziale che non hanno responsabilizzato e creato i presupposti per uno sviluppo autonomo di quelle regioni. Cioè è stato il maledetto centralismo romanocentrico di questo paese, burocratico amministrativo, che continua ad affliggersi, contro cui Renzi spara retoriche ma non combina assolutamente nulla. Ed è quel burocratismo centrale che forse dà a queste forze centrifughe grande spinta, grande animo. Io mi devo fermare a ringraziare il professor Massimo Cacciari, così come Michele Favero, l'Indipendenza Veneta, e Giuseppe Chanò del Fronte Nazionale Sicilia Indipendente. Da un siciliano andremo dopo il traffico, lo saluto, e Carmelo Barbagallo, che è il nuovo segretario generale della UIL, lo sarà settimana prossima, credo formalmente. Buongiorno Barbagallo. Lei che voi. È siciliano, tra poco sono da lei per parlare anche di altre cose. Allora, gli ultimi 5 minuti di trasmissione siamo con Carmelo Barbagallo, che sarà formalmente nuovo segretario della UIL al posto di Angeletti la settimana prossima. Barbagallo, noi abbiamo parlato di indipendenza, eccetera. Lei da siciliano, insomma, ecco, operaio della Fiat di Termini Imerese, ha un'idea sull'indipendentismo? No, credo di no in realtà. L'indipendentismo è una cosa ormai retro. Bisogna fare l'unità dell'Europa politica e sociale ed economica piuttosto che ancora le spinte indipendentiste. Non servono a niente e creerebbero più problemi. Abbiamo fatto grossi sacrifici per entrare in Europa, non vorremmo farne il doppio per uscirne. Senta, quindi le chiedo questo: perché le ha definito Renzi un, e mi scuso per la parola magari detta male, contastorie siciliano? Magari c'è in dialetto, si dice in modo diverso. Perché ha questo vezzo di cambiare ogni giorno una storia che ci racconta. Poi fa una serie di promesse, ma naturalmente se si accumulano le storie non c'è un lieto fine mai. Cioè fa troppe promesse e poche cose concrete. E quindi io gli chiederei se è possibile di cambiare verso. Cioè? Di discutere con le forze sociali per vedere di cambiare, diciamo, la questione economica del paese, che si avvita sempre di più e l'asticella si va sempre più avvicinando verso il basso, a cercare di riprendere le sorti economiche del paese, che è a rischio di estinzione. Ma non so perché discutere? Cioè Renzi dice proprio questo, si è discusso per anni. Non voglio la concertazione. No, la concertazione. No, io voglio contrattare sulle cose che servono ai lavoratori, ai pensionati, ai disoccupati, ai giovani di questo paese. E a Renzi che dice se volete contrattare fatevi eleggere in Parlamento, lo riferiva più che altro alla Camus, cioè non si tratta coi sindacati. Ma guardi, Renzi deve sapere che lui è responsabile datore di lavoro della più grossa azienda d'Italia, 3 milioni e 300 mila addetti, sono indipendenti pubblici. Quindi se vuole contrattare deve contrattare partendo da questo, e poi gli spiegheremo pure alcune cose se lui vuole. Noi siamo riformisti di nascita e vorremmo, assieme a lui, se vuole fare le riforme in questo paese, discutere delle riforme, di quelle che non costano niente, a partire dalle 150.000 leggi che ci sono in Parlamento, visto che sono lì ferme. Le chiedo, Barbagallo, la Camus secondo lei è quella ripinta da Renzi ferma al gettone telefonico, cioè un po' retro? Ma no, non so che giudizio dare su queste affermazioni. Questo tentativo di dividere il nuovo dal vecchio, il giovane dagli anziani, è un tentativo che non ci porta da nessuna parte. Dobbiamo unire il vecchio e il nuovo, e il giovane e l'anziano. Quindi voi farete per esempio lo sciopero generale se la Camus non dirà? No, noi non abbiamo detto che non è opportuno che la CGIL parta avanti, perché dobbiamo discutere assieme anche alla CISL per vedere le azioni di lotta che dobbiamo fare in base alle risposte del governo. Quindi uniti. Perché noi abbiamo fatto già due iniziative, una dei pensionati e una del pubblico impiego. Ne faremo altre, però il governo, se vuole avere un rapporto corretto con le parti sociali, deve parlare con lui. Cosa pensa di fare? Barbagallo, le chiedo, oggi Squinzi, presidente di Confindustria, fa un'intervista al Foglio e definisce il sindacato in generale in posizioni più che da risorgimento ormai da medioevo. Squinzi qualche mese fa ha fatto un accordo con il sindacato, adesso fa il ruffiano del governo, ma è un'altra cosa. Addirittura, adesso, sì, sì. Queste sono parole un po' gravi. Perché gravi? Scusa, lo sta dicendo lui che considera noi da medioevo, lui sarà... Questa è la sua risposta. Senta, le chiedo questo, Angeletti è andato in pensione, non è che ci ritroviamo un'altra pensione d'oro, voi è vero che vi dite no, c'è la privacy? Si può sapere quanto prende di pensione Angeletti? O c'è la privacy? Io non lo so, ma le assicuro che non è la stessa situazione che è stata vista qualche giorno fa. Cioè di Bonanni? Beh, come dire, non lo so, forse non ce lo può dire per la privacy, ma non lo so veramente. È il segretario della UIL, si informa. Sì, ma scusi, non è che io a tutti potrà andare in ufficio. UIL, no, potrà andare. O a tutti i pensionati della UIL chiedo quanto prendono di pensione. Vabbè, ma scusi, lei può andare in ufficio oggi e controllare, dite. Mi fate, sono il segretario, sono numero uno della UIL, mi fate sapere quanto prende di pensione Angeletti. Scusi, la pensione dall'INPS, non la dà la UIL. Ma lei può formalmente venire a saperlo? Questo sì, potrà venire. Probabilmente sì. Probabilmente. Probabilmente. E se viene a saperlo ce lo farà sapere oppure ce devo la privacy? Devo chiederlo direttamente a Luigi, non mi piacciono le scorciatoie. A Luigi, va bene, alla prima pensione vedremo. Intanto la ringrazio, grazie per essere stato con noi. Carmelo Barbagallo, nuovo segretario generale della UIL, settimana prossima. Intanto noi ci fermiamo qui con Lorenzo Nespoli in redazione, Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni e il nostro Peter Bescapè in regia. L'appuntamento è rinnovato a domani, 6.30 ci potete scrivere su Twitter, io sono Alino Milan, quello è il mio profilo. A domani. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.